a parti invertite, come è successo più volte nella storia politica campana e napoletana. Le elezioni del 6 e 7 giugno potrebbero essere quelle che chiudono un ciclo. Chiudono il ciclo del centro-sinistra e aprono quello del centro-destra, almeno nei favori del pronostico. I motivi sono tanti. Pesa la vicenda rifiuti, da cui il governo è per ora uscito vincitore, pesano le inchieste napoletane, pesa la partenza con grande anticipo della campagna del centro-destra, pesa la scelta di UDC e UDEUR, cioè De Mita e Mastella, di allearsi con il PDL. Ma pur considerando tutti questi fattori, spiega il redattore politico di Repubblica e presidente dei giornalisti campani Ottavio Lucarelli, i conti si fanno alla fine. A Napoli il candidato del PDL Luigi Cesaro è partito in super vantaggio sull'ex ministro del PD Luigi Nicolais e sul candidato della sinistra Tommaso Sodano. Ma, dice Lucarelli, non può sentirsi sicuro. Sia Nicolais sia il candidato della sinistra Sodano hanno chiesto da tempo un confronto e Cesaro, diciamo, va sfuggendo continuamente questo confronto. Questo è da un lato il segno che lui si sente in vantaggio, dall'altro però è il segnale che si sente comunque in qualche modo incalzato. Io alla fine non credo che poi ci sarà questo divario enorme tra il centrodestra e poi sommando tutto il centrosinistra. L'obiettivo del centrodestra, spiega Lucarelli, è evitare il ballottaggio. Se vince al primo turno, anche se dovesse vincere con il 50,1, sarebbe comunque una vittoria importante, perché sarebbe comunque un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi 15 anni. Se invece si andasse al ballottaggio, probabilmente da un lato si riaprirebbero i giochi e dall'altro probabilmente la rimonta, diciamo, del centro-sinistra potrebbe anche essere portata a termine in un eventuale ballottaggio. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore.